tocca la regione Emilia-Romagna, ma più che altro la zona di Bologna, essendo la tappa madre da dove tutto è iniziato nel lontano 2009. Quindi è proprio la 13ª edizione, parte proprio da qua, tra Bologna e l'Appennino bolognese. Quali sono gli appuntamenti di questa tappa bolognese? Quest'anno abbiamo dato un focus molto specifico ai quartieri di Bologna e all'Appennino bolognese, coinvolgendo tantissime reti locali sul tema proprio che è quello nazionale del diritto di respirare. Su Bologna lavoreremo e saremo presenti quindi con tanti eventi, itinerari, passeggiate a piedi, in bicicletta, ma anche eventi quindi di esplorazione territoriale, no, con occhi diversi, nei vari quartieri che va dal Savena San Lazzaro al quartiere Santo Stefano, al quartiere Pilastro, alla Barca, anche su Casalecchio di Reno. Questo era proprio per uscire dal centro e valorizzare quelle che sono le periferie della città di Bologna in una maniera inclusiva e accessibile. Mentre sull'Appennino bolognese lavoriamo già da anni con una serie di comuni, no, dell'Appennino bolognese, quindi anche dell'Unione dei Comuni dell'Appennino, con Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Monte Renzio, Monchidoro, Monzuno e Alto Reno Terme. Partiamo questo weekend con due giorni a Marzabotto, che è una due giorni che ha un itinerario a piedi che si chiama Il respiro delle vie d'acqua da un lato all'altro del fiume, volume 1 Reno. Sono due giornate con anche il pernottamento alla scoperta di quello che è la Valle del Reno, e quindi veramente una due giorni di cammino in mezzo alla natura e alla bellezza che è dell'Appennino intorno a Marzabotto, con una importante rete locale dal comune di Marzabotto alla Proloco, al CAI Alto Reno, alla Casa della Rosa, alla biblioteca. Insomma, noi quando creiamo gli eventi li creiamo con le reti locali. Poi naturalmente da questo primo weekend fino alla fine di luglio ogni weekend ci sono eventi del festival, tantissimi ospiti tra cui anche Harry De Luca, Antonio Moresco. C'è un programma molto corposo organizzato e creato grazie al lavoro di Simona Zedda, che è la coordinatrice della tappa di Bologna, e del grossissimo lavoro di rete locale, che poi è quello che è l'anima e il cuore del Festival Ithaca. Ci sono anche ospiti, diciamo così, musicali, sia locali con i suonatori della Valle del Savena che con Mara Redeghieri. Sì, assolutamente, infatti siamo molto contenti quest'anno di essere riusciti, insomma, vista anche la situazione che stiamo vivendo e proprio anche il respiro, no? Proprio quel diritto di respirare, piano piano stiamo riprendendo, no, gli spazi della città, ed è importante quindi non soltanto parlare di turismo, di valorizzazione del territorio, ma anche di respirare, no, rirespirare la cultura. E quindi noi abbiamo cercato di creare questi pacchetti che sono degli itinerari in bici, a piedi, però con anche dei momenti in cui ci sono delle performance artistiche, delle presentazioni di libri, naturalmente seguendo tutte quelle che sono le direttive sanitarie anti-Covid del momento. Ed infatti l'evento con Mara Redeghieri è domenica 27 giugno presso il quartiere Pilastro, zona Roveri, che l'evento si chiama Paesaggi Urbani volume 2, si ritrova proprio nel parco del quartiere Pilastro con un aperitivo cena e questa performance legata alla compagnia teatrale Legami, e poi con questo finale proprio con l'artista Mara Redeghieri. Naturalmente è importante da dire che bisogna assolutamente iscriversi per una questione anche di sicurezza, insomma, per prevenire quelle che sono la situazione sanitaria che stiamo vivendo. È importante iscriversi andando sul nostro sito, e quindi insomma lì ci sono tutti i contatti. E questa importante giornata è anche legata a quella che è il tema dell'accessibilità, perché quasi tutti i nostri eventi sono organizzati in collaborazione con una rete locale che si occupa di accessibilità. La stessa giornata ci sarà anche il nostro partnership Remove, che metterà a disposizione delle special bike accessibili per poter fare l'itinerario. Quindi sono veramente tante le attività attività che uno può fare durante i nostri eventi. Insomma, voi siete un festival del turismo responsabile, insomma, anche in seguito alla pandemia, una doppia responsabilità, quella di fare turismo in un certo modo, no? Sì, assolutamente, con quello che stiamo vivendo, infatti anche il tema che abbiamo scelto a livello nazionale, che poi ogni tappa sul proprio territorio declina, che è quello del diritto di respirare, era proprio una risposta a questo momento particolare che stiamo tutti vivendo, non soltanto legato al tema della pandemia, quindi al fatto che ci è mancato il respiro, no? Chiusi nelle nostre case per il lockdown, anche un limite allo spazio, al movimento, ma il diritto di respirare legato anche a quello che è il nostro ambiente, cioè noi dobbiamo continuare, per noi e per le nostre nuove generazioni, a cercare di trovare tutti i modi per poter preservare il nostro ambiente, i nostri boschi, quindi l'aria, ma non soltanto, anche rendere le città più vivibili, no? Più sostenibili, quindi temi legati alla mobilità sostenibile, cioè tutto quello che è diciamo un'alternativa, no? Al nostro stile di vita, noi in questo momento dobbiamo assolutamente fare delle scelte legate al mondo e all'ambiente in cui viviamo. Ecco quindi perché in questo momento ancora di più, visto che non possiamo neanche viaggiare dall'altra parte del mondo, è importante viaggiare vicino a casa, ma rendendosi conto di quanto è importante quel viaggio, quel movimento, di quanto l'impatto che noi abbiamo sul nostro territorio, quindi preservarlo. Ricordo a tutti e a tutti che il sito è reperibile all'indirizzo festivalitaca.net, quindi lì potranno trovare tutte le informazioni più nel dettaglio. L'ultima cosa volevo dire è che il festival è organizzato dall'associazione Yoda e da Nexus Emilia Romagna, con veramente un'importantissima rete locale e con una coprogettazione con le istituzioni locali, dal comune di Bologna, dalla città metropolitana, da veramente un lavoro enorme sul territorio.